Energia. Tu lascia che a guidarti sia energia. È chimico elettronica, è energia. Sostanza viscerale a puro istinto musicale. Se prima non l'avevi, la forza è l'energia. Se prima non l'avevi, la forza è energia. La forza è energia. Tu cerca l'energia.